La violenza è qualcosa che va oltre ad un semplice sopruso. È il mondo intero ad essere violento, disumano, disumanizzato e disumanizzante. Perché sono proprio i rapporti sociali, mattone fondamentale e imprescindibile della convivenza, ad essere improntati alla violenza. Perché ogni giorno, ogni istante, viene commessa una violenza a ritmo incessante. Il mondo è violenza e c'è chi è stuprato e chi è stupratore, chi vittima e chi carnefice, chi sfruttato, sfrattato e vilipeso e chi sfruttatore, aguzzino e giudicante. La violenza la trovi ovunque, la trovi nelle scuole, nelle strade, nei tribunali, nelle menzogne televisive. La legge è violenza, perché al più delle volte significa repressione, controllo, ingiustizia. Il denaro è violenza, perché imbarbarisce gli uomini e li fa diventare egoisti, voraci, assassini, perché li rende merci in un mondo fatto di mercanti e contrabbandieri, perché li fa schiavi di un sistema che non potrebbe funzionare senza schiavi e signori. Ed in questo immane meccanismo gli ingranaggi vengono oliati con il sangue ed il sudore dei deboli, con le lacrime e la sofferenza di intere popolazioni, con il sacrificio di milioni di innocenti. La guerra è violenza, è morte, è approfittazione mascherata da idealismo, è violenza di Stato, è distruzione di civiltà, è negazione della vita, è perpetuazione e acquisizione di potere. La guerra è inganno. E in questo inganno sono sempre gli stessi a pagare con il sangue, con la disperazione, con il terrore. Sono sempre gli stessi a morire per ideali e parole lontane anni luce dalla propria vita, per ragioni incomprensibili, per giochi di potere che non capiranno mai. La guerra è nel mondo, c'è sempre stata, fin dagli albori, fin da quando l'uomo, cacciatore e raccoglitore, cominciò a rendersi consapevole delle proprie potenzialità. Esiste una ragione alla violenza che fa del mondo uno spettacolo indecente. La violenza nasce nel momento in cui l'uomo smette di pensare in termini di specie e comincia a farlo in termini di individuo. Nascono le gerarchie, le catene di comando, il potere e con esse la guerra, il ricatto e la sottomissione. Il baratro immenso apertosi da questo momento in poi, in cui l'umanità tutta è ruzzolata, paralizza oggi l'essere vivente potenzialmente più creativo del pianeta, ad essere soltanto l'ombra di se stesso, soltanto un'enorme potenzialità sprecata, un'opportunità buttata via. Un grande architetto senza tavolo su cui disegnare, un grande pittore senza colore per dar vita ai suoi dipinti, un amante appassionato, senza amore da condividere. Soltanto il triste burattino di un teatro di balocchi, comandato dai fili della casualità e dell'incoscienza. Siempre. Benvenuti dalle frequenze di Radio Ciroma 105.7 ciroma.org. Noi siamo sempre gli Scarafaggi, consueto appuntamento del lunedì ore 18 con la puntata degli Scarafaggi annidati nella discarica di Celico. In particolare abbiamo una nuova buca, quindi stiamo belli larghi. Stiamo belli larghi, sì. Siamo, diciamo, abbiamo ampliato i nostri locali, i nostri salotti, diciamo così. Niente, oggi puntata con qualche ospite. Vediamo se riusciremo a contattare il sindaco di Celico in diretta. Sarà con noi a discutere un po' della situazione, insomma gli faremo qualche domanda più nello specifico per capire come stanno veramente le cose sulle autorizzazioni, sui capannoni e via discorrendo. Avremo un ospite gradito della rete Raspa, ci sono in cantiere, insomma, delle attività, delle manifestazioni, insomma il fronte Notriv del Tirreno e del Pollino continua la sua battaglia in tutela dell'ambiente, del mare, insomma della salute dei cittadini, e quindi avremo la voce viva di questa realtà combattente. E poi niente, poi vediamo un pochino, abbiamo fatto l'incontro a Spezzano, è andato bene, molto partecipato, ne parleremo dopo. Insomma, i contenuti come al solito sono sempre molti, sono sempre alti. Poi io ho una notizia come al solito, non dico bomba, che non è il momento di dire bomba. No, per carità, ho una chicca. Appunto, non è proprio il momento di usare questi termini. E quindi questa è la puntata più o meno di oggi. Andiamo con la rubrica. Andrea mi fa segno che posso andare con la rubrica. Mi dicono pure che forse abbiamo problemi con lo streaming, quindi forse oggi andiamo in onda soltanto su 105.7 FM. Nel caso, comunque, l'indirizzo è ciroma.org per lo streaming, sperando che funzioni. Erano stati risolti i problemi, evidentemente non definitivamente. Va bene, oggi comunque 23 novembre, vediamo un pochino che cosa è successo. Nel 1867 fatto molto particolare, vengono impiccati a Manchester i cosiddetti martiri di Manchester, una storia particolare del nostro conflitto per l'indipendenza dell'Irlanda. I martiri di Manchester è l'epiteto con cui sono conosciuti tre giovani irlandesi, William O'Meara Hallen, Michael Larkin e William Gould, impiccati sulla pubblica piazza a Manchester il 23 novembre 867. Perché ritenuti colpevoli di aver ucciso un poliziotto inglese facente parte del convoglio che stava trasferendo nel carcere della Contea due prigionieri appartenenti al movimento indipendentista dei Feniani, il Sinn Féin, che poi diventerà nel corso del tempo il più grande e il principale partito politico cattolico irlandese. Quindi un episodio della lunghissima storia dell'indipendentismo irlandese. Poi andiamo avanti nel corso degli anni. 1890, il primo jukebox, una curiosità, entra in funzione nel Palais Royal Saloon di San Francisco, quindi addirittura prima del Novecento, il primo jukebox. 1903, andiamo ancora avanti negli anni, il governatore del Colorado, James Peabody, invia la milizia dello Stato nella città di Cripple Creek per porre fine ad uno sciopero di minatori. Quindi, giusto per ricordare gli episodi, insomma, dei problemi della rappresentanza del lavoro e insomma dei diritti dei lavoratori in America nel corso dei secoli. Poi 1971, un evento importante: la Cina ottiene il seggio di Taiwan nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Oggi fa parte dei 5 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Crozza nell'ultimo intervento, insomma nell'ultima puntata, più che un Consiglio di Sicurezza l'ha definito un consiglio per gli acquisti, visto che i primi 5 i 5 membri del Consiglio di Sicurezza sono i primi esportatori di armi al mondo, quindi più che Consiglio di Sicurezza lo ha definito giustamente un consiglio per gli acquisti. E poi andiamo con la mente al 1980, purtroppo al terremoto dell'Irpinia, che si verificò con epicentro tra i comuni di Conza della Campania, Avellino, Teoria, sempre Avellino, e Laviano, Salerno, che causò circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti, circa 3.000 morti, uno dei terremoti più devastanti della nostra storia. Quindi ricordiamo le vittime, i danni che ancora oggi si contano a milioni. Quindi abbiamo chiuso la rubrica del 23 novembre, possiamo andare nella prima pausa musicale e poi vediamo chi c'è in linea, se ci sarà in linea qualcuno. A tra poco. C'è niente da ridere, è come un lungo sonno, un sonno ad occhi aperti, un'illusione, una beffa, una pantomima. I tempi cambiano, oh no, la storia corre, è come un lungo sonno ad occhi aperti, che non finisce mai, nemmeno se lo vuoi. Ma forse è questo che vuoi, aspettando che cambiassi il mondo o che cambiassi tu. Sono cambiato io e senza accorgermene, adesso sono di destra, sono cambiato io e senza accorgermene, adesso sono. Lavoratori, quelli delle donne, la lotta di classe, cuore di ogni progresso, la fedeltà alle idee, i valori della Costituzione, una società più giusta e più uguale. Non me ne frega più niente, è tutta un'illusione, una beffa, una pantomima, è come un lungo sonno. No, non ho detto sogno, ma sonno, sonno, sonno! Dopo il lungo sonno ritorniamo in studio dalle frequenze di Radio Ciroma 105.7, sperando che lo streaming funzioni, ciroma.org. Allora, che cosa, Andrea, possiamo provare a chiamare, facciamo questa telefonata in diretta, vediamo se ci risponde il sindaco di Celico Falcone, così ci illuminerà, insomma, qualcosa del genere. Innanzitutto, vabbè, abbiamo fatto questo incontro a Spezzano. Ci temporeggiamo nel frattempo che Andrea impara a usare il telefono. Vabbè, sì, temporeggiamo. Poi dici che lo streaming non funziona. Poi dici che lo streaming non funziona. Ancora siamo al telefono. Sì, sì, abbiamo problemi con la tecnologia. Insomma, diciamo che ci dobbiamo modernizzare da questo punto di vista. Sì, abbiamo acceso la stufa, però. Sì, sì. Quindi... per mangiare un po' di umidità che c'è qui dentro. Sì, sì, sì. Infatti. Adesso stiamo meglio, appena siamo entrati, insomma, la situazione era leggermente critica. Diciamo, stavo dicendo che sabato c'è stato questo incontro, domenica, ho partecipato a Spezzano Sila nell'ex sala consiliare, anche se qualcuno dice che parlare non serve a nulla, che confrontarsi, discutere senza conoscere i fatti, che poi di quale fatti si tratta, non si capisce bene, perché comunque il bicchiere dobbiamo averlo mezzo pieno, perché dobbiamo essere ottimisti, come dice Renzi, come diceva Silvio, perché queste erano le cose di Silvio, non le dice Renzi. Quindi vabbè, Renzi ha avuto un grande maestro, un grande precursore, insomma, voglio dire, no? Speriamo di avere una delle persone più informate sui fatti sulla discarica di Gerico, che appunto è il sindaco di Gerico, che è uno da sempre in prima linea, diciamo, anche quando ancora non era sindaco. Sì, sì, sta seguendo la questione, la sta seguendo, insomma, da molto vicino. Sa comunque, insomma, ha dei rapporti, il suo attuale assessore all'ambiente, no? È l'ex sindaco Corrado, che è uno dei tanti firmatari delle carte di autorizzazione alla discarica di Cerico. Quindi, voglio dire, c'è anche una certa continuità con il passato, e quindi i rapporti sono... Tiene sempre a sottolineare che lui ha interrotto questa continuità, perché lui non è sotto la busta paga di nessuno. Del resto, da quello che fa e da quello che dice, insomma, sta dimostrando abbastanza, no, chiaramente, che almeno a parole, comunque la volontà di cambiare le cose c'è. Poi ci scontriamo comunque con una situazione abbastanza complicata, e quindi dal suo punto dal suo ruolo istituzionale, la situazione non è sicuramente facile. Sicuramente lui, certe volte bisogna capire che non si discute per avere ragione, ma anche per capirsi, no? Che non è che è normale che lui, essendo un'istituzione, è bersaglio di invettive anche di persone poco conoscono i fatti. Ci sta, è vero, però non bisogna generalizzare, certo, e cercare di includere più persone possibile nel dibattito. Certo, anche perché poi, voglio dire, incontri come quello di domenica hanno evidenziato un dato politico abbastanza interessante, no? Perché hanno partecipato attivamente e con una buona presenza, intervenendo proprio tra i relatori dell'iniziativa, i Giovani Democratici di Spezzano, che come circolo di Giovani Democratici nella Presila sono quelli che più chiaramente degli altri circoli presilani hanno espresso la propria contrarietà a questa discarica. Hanno scritto più volte a Oliverio, hanno espresso pubblicamente le loro posizioni più volte, anche con documenti e con un chiaro indirizzo per una gestione diversa dei rifiuti. Quindi è il dato politico che è uscito fuori, appunto, che esiste, no? Una sensibilità diversa in un PD che per alcuni versi e per tante cose sembra appunto un partito quasi schizofrenico, no? Perché magari a livello nazionale, a livello regionale si portano avanti determinate politiche, poi dalla base vengono fuori idee, progetti e proposte completamente diverse. Quindi è uscito fuori, insomma, questo dato politico importante, con insomma una sensibilità che i Giovani Democratici, comunque, che sono tra, lo ricordiamo e lo ricorderemo sempre, tra i promotori del Comitato Ambientale Presilano, hanno partecipato attivamente fin dall'inizio alle attività del comitato, e quindi rappresentano una sensibilità importante del panorama presilano. Quindi l'ho voluto sottolineare, appunto, perché l'ho reputo un dato molto molto importante. Che giustamente, come più volte si è sottolineato durante gli interventi, la nostra non è una posizione partitica, ma è una posizione politica. Noi vogliamo la chiusura della discarica. Sta suonando il telefono. Sta suonando il telefono in diretta. Abbiamo queste. Aspettiamo il tutù della Telecom. Vediamo se il sindaco ci risponde. Se no lo chiamiamo dopo. Se no, sì, lo chiamiamo dopo, comunque abbiamo tempo. Sapevamo che era una riunione. Sì. Non vogliamo certo disturbarlo oppure creargli alcun fastidio, alcun problema, quindi proviamo a chiamarlo più tardi. Niente, non volevamo fare pubblicità. Non ci sfuggi, ti chiamiamo dopo. Non volevamo fare pubblicità ad alcuna compagnia telefonica, comunque purtroppo si è sentita. Niente da fare. Va bene, quindi andiamo avanti. Poi, stavo dicendo sul fatto della posizione partitica. Noi non abbiamo posizione partitica, nel senso che non appoggiamo, non osteggiamo a nessuno, se non ovviamente situazioni di estrema destra che richiamano a una pagina brutta della nostra storia. non osteggiamo nessuno, abbiamo contrastato Scopelliti non perché apparteneva a una forza di centrodestra, e osteggiamo Oliverio non perché apparteneva a una forza di centrosinistra, ma per le politiche che stanno portando avanti, a prescindere da che partito loro rappresentino. Contro le politiche, non contro i partiti. Assolutamente. Poi si potrebbe fare un discorso più generale che potrebbe ampliarsi, vabbè, quello è un altro discorso, ma in questa circostanza e in questo nostro discorso sulla discarica di Ceri, che è più in generale sul piano rifiuti, noi siamo contro quello che sta portando avanti Oliverio, perché ci sembra, e le carte purtroppo e gli indirizzi politici che sono stati messi in mostra nelle conferenze stampa mostrano che non c'è assolutamente un distacco rispetto a quello che voleva portare portato avanti anche la giunta Scopelliti, l'amministrazione Scopelliti, ma come anche l'amministrazione Loiero, Chiavallotti, si susseguono. Possiamo andare indietro nel tempo, infatti, di anni e anni e anni, perché ritroviamo sempre le stesse. Da sinistra a destra e da destra a sinistra ci ritroviamo sempre nella stessa punto di partenza, dove ci ritroviamo a Celico con una discarica come 20 anni fa, una discarica che è stata in questo momento è chiusa perché stanno ampliando, almeno ufficialmente è chiusa perché stanno ampliando, stanno aumentando del doppio la capienza volumetrica della buca precedente, e stanno montando questi capannoni che non si capisce bene in quanto non ci sono relazioni tecniche, pare non ci siano delle autorizzazioni, manchino delle autorizzazioni del comune, stiamo aspettando ancora delle risposte. Questi comuni, questi uffici tecnici sono oberati di lavoro e non riescono a capire se hanno concesso o no un'autorizzazione a fare dei capannoni di oltre di 15 metri a un impianto fulcro della gestione dei rifiuti della regione Calabria. Purtroppo ognuno ha i tempi, no, c'era il sindaco di Rieto che parlava di tempi politici, tempi della politica, i tempi tecnici, sì, la politica dei piccoli passi, sicuramente tanti territori muoiono con questi, la politica dei piccoli passi frangenti. Magari non inciampi mai, però ti fai male lo stesso, perché magari muori di colpo. Morire a livello figurato, sì, vabbè, metaforico, sì, diciamo così, sono tutti suscettibili. No, già mai, per carità. No, vabbè, comunque il dato è questo. Poi voglio dire, la confusione e la poca trasparenza, insomma, che gira intorno a quasi tutti gli impianti e le discariche calabresi, perché quasi tutti gli impianti calabresi hanno problemi di autorizzazione, problemi di localizzazione del sito, collegamenti stradali, chi più chi meno ha comunque delle irregolarità, delle zone d'ombra comunque in cui poi si vanno a giocare i destini di una regione, dei territori, perché se un impianto di un certo tipo non può essere costruito, non può essere installato in un determinato territorio, appunto con queste zone d'ombra invece lo fanno, creando poi dei problemi di livello generale molto importanti, perché insomma un territorio come il nostro, per esempio, con i fiumi, con i corsi d'acqua, le falde acquifere e via discorrendo, crea una serie di problematiche che non si fermano, non si limitano soltanto alla gestione dei rifiuti in sé, ma appunto cominciano ad investire ambiti più ampi, no? Quindi diciamo che ancora una volta, anche per quanto riguarda questi capannoni, che erano stati insomma inseriti nei cronoprogrammi della prefettura negli anni scorsi, nel 2007, ricordiamo, insomma, sì. Il cronoprogramma della prefettura che imponeva la costruzione di questi capannoni, questa progettazione che prima era in un modo, poi era in un'altra, poi non è stata presentata, era stata accantonata, insomma questo giro di carte infinito in cui si perde poi il senso e la chiarezza di quello che fanno e di quello che viene realmente fatto in questi impianti, che cosa viene sversato realmente, insomma i controlli che sono, chi ci sversa, sono anche i privati, esatto, anche perché poi abbiamo visto insomma dopo anni in cui abbiamo potuto finalmente accedere alle carte che riguardano questa discarica, abbiamo visto che no, il ventaglio dei rifiuti che possono essere abbancati in questa discarica è talmente ampio che ci può andare a finire di tutto, dai rifiuti industriali, fanghi, uomini e caporali, uomini minicchie, uomini in merda, ecco, insomma ci può andare a finire un po' di tutto in questa discarica. Quindi il discorso è questo: in questo grande marasma, in questo grande ombra, in questa poca trasparenza, poi alla fine si gioca il destino di un territorio. Non è solo Celico, è Scalaceli, è Battaglina, è Pianopoli e qualsiasi altra discarica, altra porcata che hanno fatto in questa regione. Quindi hai toccato secondo me un punto fondamentale, nel senso della pianificazione, della programmazione, guardando in primis la fattezza di un territorio, quale che è la Calabria, che per il 98% si trova a rischio idrogeologico. Questo esatto. Che significa? Anziché puntare sui mega impianti come la discarica di Gerico, come la discarica di Pianopoli, fare piccoli impianti, impianti piccoli che servono piccole comunità, perché comunque oltre ad avere un territorio che si sta sgretolando sia per le caratteristiche naturali ma soprattutto anche per la non curanza che abbiamo avuto nei nostri territori nel corso degli ultimi anni e anche per l'acuirsi dei fenomeni climatici. Sì, un concorso di cause generali sì. Comunque. E quindi ha portato dovrebbe portare un nuovo pensiero di pianificazione, piccoli impianti, per servire anche i paesi, comunque si tratta sempre di oltre l'80% paesi piccoli, dai massimo 5.000 abitanti, quindi che potrebbero tranquillamente essere autosufficienti, e da qui le nostre proposte di aziende consortili speciali pubbliche, comuni che si consorziano per gestirsi in proprio la spazzatura e poi interfacciarsi direttamente con il CONAI. E questo potrebbe anche significare uno sganciarsi dalla regione, cioè la regione pianifica, programma, però poi sono i comuni che insieme si danno da fare per far funzionare un territorio. In questo modo magari anche la regione potrebbe sgravarsi di un problema che la riguarda, però difficilmente riesce a pianificare, perché da regione tu vedi solo grandi impianti per facilitare velocemente il problema, che poi velocemente si è visto in questi anni che non è assolutamente così. Siamo al punto di partenza, anziché fare questi digestioni aerobici, questi inceneritori che distruggono e continuano a portare malattie e devastazione per il territorio, bisognerebbe cambiare proprio la prospettiva, e questo è quello che noi imputiamo, ritornando al punto di partenza, alla Giunta Oliverio, perché non c'è stata assolutamente nessuna di quella buona volta, la svolta, cambia verso, sì, tutti quegli slogan, tutti gli altri, vanno avanti ad hashtag, una volta si andavano avanti a slogan politici, a striscioni, a manifesti, adesso vanno avanti ad hashtag e a puttanate varie, quindi il discorso è che, giusto come dicevi tu, è quella la proposta forte che abbiamo sempre fatto, comunque non solo qua a Cerico come comitato ambientale, ma un po' tutti i comitati territoriali, tutte le associazioni ambientaliste calabresi, che è appunto quello di mettere finalmente in cantiere per la prima volta un piano rifiuti davvero partecipato. La parola partecipazione, il piano rifiuti partecipato, non è uno slogan, non è un hashtag alla zero discariche di Oliverio, è proprio una prassi politica, no? Di fattibilità, perché coinvolgendo direttamente i territori, e non si parla soltanto di coinvolgere il sindaco di turno col comune più grosso oppure il privato di turno che opera in un determinato territorio. Coinvolgere il territorio significa coinvolgere la popolazione di un territorio, quindi ascoltare realmente quali sono le esigenze di un territorio, quindi coinvolgere i comitati, coinvolgere le associazioni, coinvolgere chiunque abbia qualcosa da dire e sappia di che cosa si sta parlando, quindi coinvolgere le competenze che ci sono in regione, che invece vengono mortificate poi con quelle nomine becere di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, insomma, perché nel corso del tempo vengono messi personaggi che hanno competenze di tutt'altra maniera in settori in cui non capiscono niente. Quindi questo è un pochino il discorso in generale, ed è questa la proposta che abbiamo sempre fatto in qualsiasi occasione. Non so se ci hanno convocato per l'audizione. Sì, il 25 siamo convocati presso la quarta commissione, la commissione ambiente, per prendere la parola e dire la nostra sul piano rifiuti, sulle linee guida, sul piano rifiuti prossimo 21, e noi appunto andremo a dire anche quello che abbiamo detto questa sera qui. Esatto. A raccontare quello. Dimmi, Andrea. Beh, benissimo quando parli così al microfono. Grazie, fantastico. Andremo lì a portare le nostre esperienze e le nostre competenze, sperando che vengano ascoltate almeno in parte, in quanto quelle che sono emerse dalle linee guida sono delle prospettive alquanto allarmanti. Sì. Per noi in Presila, ma diciamo per tutta la Calabria. Quello che non è allarmante è per i privati, che i privati assolutamente un pacco di soldi. Già hanno cominciato a incassare le prime. Sì, solo l'amica prenderà 13 milioni di euro in 5 anni, se non sbaglio, non mi ricordo, in due anni. Nonché ricordiamo l'amica costola della Sovreco, insieme alla discarica di Crotone, una delle più grandi discariche della Calabria, praticamente sono quelle aperte, gestiranno fondamentalmente lo sversamento dei materiali in discarica, quindi si tratta di una sorta di monopolio quasi per il momento. E questo secondo me non è una gran cosa. Giusto per prima di mandare il pezzo musicale, c'è quella bomba chicca. Non dire bomba perché non qua bomba, stanno cercando Salà. Credono che sia qua con noi nello studio. Si sente pure puzza di bruciato, insomma, stasera in questa stanza. Quindi per favore, non. Dai. Ci sarebbe, secondo un articolo del Fatto Quotidiano, la procura di Brescia, la DDA di Brescia, un attimo, DDA di Brescia, quindi ha aperto un fascicolo sul traffico illecito e anche lecito di rifiuti, in quanto molti impianti avrebbero delle polizze, delle filiazioni assicurative false, e ha messo in allerta tutte le procure d'Italia, soprattutto focus su d'Italia, Campania, soprattutto Calabria e Sicilia, in quanto guardo un po'. Vabbè, sono alla fine le regioni di cui si che parla, che hanno più problemi. Sì, si parla nelle inchieste parlamentari antimafia, si sa che qui si fa business con i rifiuti, si sa che sono i soliti privati. Non c'è bisogno di fare nomi perché i nomi sono sempre gli stessi, ma noi non abbiamo nessun problema. Saranno poi le procure, sperando che la procura di Cosenza non dorma sonni tranquilli. Si dia una svegliata e non pensi che ci siano i terroristi dell'ISIS a Cosenza, ma perché qua chi ha distrutto il territorio, chi uccide le persone, i tagliacolle sono bene. Non è l'ISIS, ma è l'andrangheta, è la politica delle facce pulite, è la politica delle belle parole, delle chiacchiere, dei bicchieri mezzi pieni. Sono quelli i tagliacole qui in Calabria da noi, sono le persone che si voltano tutti i giorni dall'altra parte facendo finta di non vedere niente, che si chiudono in casa a guardare la televisione, che non partecipano. Quindi sarebbe il caso che la procura prenda al balzo questo grande assist della procura della DDA di Brescia e metta in moto e apra qualche cazzo di fascicolo, che sarebbe pure ora sul ciclo dei rifiuti in Calabria, sarebbe pure ora. Quindi con questo invito alla procura, dico l'ennesimo invito, anche insomma, oggi, alla datemi la mia querela quotidiana. Eh sì, perché giustamente poi le procure, le querelle le mandano a persone come te. Va bene così, andiamo in pausa pubblicitaria. Vabbè, ciao, sì, vabbè. Ok, lo sputtanamento di Ciro. Scusate a tutti, andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco. by desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was green. Dopo questo bellissimo pezzo dei Pink Floyd, ritorniamo in studio, 105.7 ciloma.org. Abbiamo in linea Tullio De Paola della rete Raspa. Insomma, Tullio, ci senti? Sì, vi sento. Ciao, ragazzi. Ciao, grazie di essere con noi. Insomma, come abbiamo promesso nelle anticipazioni della puntata, diamo come al solito voce, insomma, all'ambientalismo calabrese, insomma, a chi difende i territori, a chi difende l'ambiente, la salute dei cittadini. Insomma, una realtà importante come la vostra merita tutto lo spazio possibile, la voce che possiamo dare. Quindi, ciao Tullio, che cosa ci racconti, com'è la situazione, quali sono le cose in cantiere, insomma, che avete? Allora, intanto noi vi ringraziamo dello spazio che ci state dedicando, che ci state offrendo per pubblicizzare un po' quello che noi riteniamo sia il problema più grosso che dobbiamo affrontare come sibariti e di conseguenza anche come provincia di Cosenza. Noi come Raspa nasciamo come rete di associazioni, più convenzorio vasto, quello dello Sibaritide e Pallino, e ci siamo prefissi un obiettivo importante, che è quello dell'autotutela. Quindi abbiamo affrontato di volta in volta diverse tematiche, da le ferriti di zinco, che sono un problema enorme che abbiamo qui da noi, alla mancanza delle comunicazioni, delle vie di servizio primarie che isolano diversi paesi interni, da Alessandria è un esempio proprio emblematico. Sì, proprio di questa problematica. Abbiamo affrontato il terzo megalotto, che è un'altra speculazione enorme che si giocano sulle nostre teste, però abbiamo poi deciso di concentrarci sulle trivellazioni, perché secondo noi la cosa più grave, in questo, il rischio più grave che stiamo correndo è legato proprio a questo. perché le trivellazioni vanno in pratica a compromettere quelli che noi riteniamo siano gli unici due comparti produttivi che abbiamo, che sono l'agricoltura e il turismo. In questo momento purtroppo è la festa, sì, sicuramente anche tutto il comparto ittico va a farsi a farsi benedire, sì, sì, certo. Insomma, una problematica che insomma, con l'accelerazione potente, insomma, che ha dato lo Sblocco Italia, anche se ci sono stati dei consigli regionali che hanno chiesto la modifica attraverso referendum, insomma, di alcuni articoli di questa legge, a tutti i vari passaggi istituzionali. Abbiamo cominciato onestamente facendo pressione sulle amministrazioni comunali e locali e sui sindaci, chiedendo un po' a tutti di applicare il principio di precauzione, che è un principio che i nostri sindaci tendono un po' a sottovalutare. L'unico che ci è venuto dietro, è, anzi sono in due, perché la notizia di stasera, oltre a Trebisaccio, che è un qualcosa che è già fatto, quello di usare il principio di precauzione verso i possibili, probabili danni derivanti dalle attività estrattive delle multinazionali petrolifere, si è accodato anche Montegiordano a questa cosa. E gli altri ancora stiamo aspettando che decidano di farlo. A livello istituzionale siamo stati a Bari, alla Fiera del Levante, eravamo soli come calabresi purtroppo anche là, perché volevamo contestare Renzi, che poi ha deciso invece di assistere a una partita di tennis a New York, quindi... Sì, è andato a vedere la finale, è andato a vedere. Ma tutti i governatori presenti. Siamo riusciti a passare il consiglio regionale con qualche settimana di anticipo ad Oliverio, perché Peppino D'Elia, che era presente in qualità di delegato per la regione Calabria, ha preteso che assumesse un impegno formale in modo da consentire a Di Salvatore del Comitato Nazionale No Triv di avere le documentazioni nei tempi utili per poi depositare tutte le istanze. Il referendum, chiaramente, sì. Il problema grosso comunque resta, perché il referendum non sarà retroattivo. Qui abbiamo due permessi e due istanze di ricerca petrolifera che rientrano nella prima toccata dello Sblocco Italia, per cui nel momento in cui ci sarà effettivamente la presenza di metano o di petrolio, l'estrazione di greggio sarà conseguenziale, non avranno bisogno di nessun altro permesso. Già le attività investigative di per sé creano problemi, insomma, di varia natura, quindi poi conseguente l'estrazione, quindi i danni vanno proprio esponenzialmente ad alzarsi. Sì, allora, la cosa di cui si parla maggiormente è l'ice gun, che praticamente è questo metodo di ricerca tramite delle bombe ad aria che vanno a distruggere, oltre a tutto l'ambiente marino, soprattutto gli spiaggiamenti di capodogli o gli altri cetacei, sono conseguenziali proprio a questo discorso. Quindi, insomma, un altro discorso che si sta un po' sottovalutando è un discorso di cui si parla poco. L'unico che ne parla, e ne parla da un po', è Francesco Cirillo, è il discorso delle navi dei veleni. Siccome abbiamo questo cioè, praticamente le casse sono segretate, noi abbiamo la certezza che ci sia presenza di queste navi nei nostri mari, ma non sappiamo dove. Un nostro grosso timore è che l'ice gun possa, il metodo di ricerca ice gun, queste esplosioni di aria compressa con dei decibel superiori a 20 volte quello del normale volume di un oggetto rock, per capirci, possono andare con le onde sonore a smuovere i barili o tutte le sostanze che si possono trovare all'interno di queste navi ormai tombate nei nostri mari. Oltre a tutte quante le sostanze che sono segretate, perché c'è purtroppo la possibilità delle multinazionali di nascondere le sostanze che vengono usate per il fracking, che è un altro metodo di ricerca. Sì, a terra. Operazione, e qua c'è di bello in Basilicata, che ormai viene snobbato puntualmente, ma abbiamo visto che sul Pertusillo ormai che è un bacino idrico imbastandissimo, perché dà acqua a tutta la Puglia addirittura. Sì, sì, sì, sì. A parte le cose più evidenti che passano all'occhio normalmente delle morie dei pesci e altro, ma qua parliamo di quantità di uranio, di arsenico presente in un bacino che dovrebbe essere proprio integro, perché sì, si tratta di acqua potabile, quindi di acqua che insomma approvvigiona le famiglie, le città, quindi sì. Dimmi Andrea se... No, dico bisogno di una notizia più specifica, interrompimi perché se no vado. No, no, figurati, puoi andare liberamente, giusto ora per specificare che poi no, le contraddizioni, scusa, le contraddizioni pesanti, per esempio parlavamo prima, il Pollino è stato dichiarato patrimonio dell'UNESCO, insomma poi vediamo situazioni a pochi chilometri di distanza, insomma fracking oppure estrazioni petrolifere che dell'ambiente, dei patrimoni insomma dell'umanità se ne fregano, quindi c'è questa contraddizione costante insomma nei nostri territori, in Calabria, ma non solo in Calabria, che poi si scontrano con le realtà, insomma con le situazioni. Una contraddizione continua purtroppo, Andrea. Noi l'altro giorno eravamo a Cassano perché c'era Don Ciotti con Libera ed eravamo andati lì e c'era il dottor Laghi con l'associazione Riccio ed altre associazioni di Castrovillari, che ponevano in evidenza proprio questo discorso che stai facendo tu adesso, cioè l'assurdità per avere un parco nazionale più grosso d'Italia, uno dei più belli d'Europa. Adesso qua facciamo un bel patriottici, noi diciamo che figure, specie uniche come il pino loricato, per me lo mettono tra i parchi più importanti del mondo, no? Sì, sì, sì. Infatti. Sono in fortissima contraddizione con la centrale del Mercure, per esempio, con l'assurdità di una centrale biomassa che dovrebbe sfruttare qualcosa come, si parla di 6.000 quintali di legna, prendi tra 200 autotreni al giorno di biomassa, cioè cose fuori proprio dalla logica. E quindi posso farti una domanda? Sono Italo, Tullio. Una domanda: i vostri rapporti con le amministrazioni comunali e in generale con quella regionale, come si pongono in merito alle problematiche che giustamente mettete voi in risalto? Che rapporti avete, insomma? Allora, Italo, noi abbiamo avuto il piacere, perché finora è stato un piacere, ti dico la verità, di conoscere l'assessore all'ambiente, Larissa. E niente, la situazione era partita così: noi andavamo a fare contestazione a Trebisacce alla presentazione della bandiera blu, perché consideravamo un'assurdità che Trebisacce ricevesse la bandiera blu nel 2015 e cominciassero poi le attività estrattive nel 2016, no? Dio mio. Sì, delle cose ovvie, delle volte poi sembra quasi un gioco, no? Sì, invece sì, sì. Non abbiamo fatto la contestazione perché l'assessore ha deciso di incontrarci, di conoscerci, non conosceva le tematiche, le problematiche, si era insediata da pochissimi giorni. Il fatto che si fosse insediata da pochissimi giorni ci ha comunque indotto a dare la massima fiducia, perché avere le posizioni prevenute in anticipo mi sembra fuori luogo. E l'abbiamo ascoltata, ci ha lasciato tutti i suoi recapiti ed altro, siamo stati poi a trovarla successivamente. Pronto? Siamo su invito, sì, ci sei. Siamo andati così. E lei ha voluto sapere quelle che erano, secondo noi, le forme di lotta da portare avanti. Noi gli suggerivamo di fare un incontro con tutti i sindaci della zona, cioè a partire da Cariati e coinvolgere possibilmente anche i lucani o i pugliesi, anche perché il golfo di Taranto è un golfo chiuso, per cui da Marina di Leo a Capo Colonna correnti che bagnano le nostre spiagge, non è che sono cose diverse. E come dicevo prima, gli suggerivamo di spingere i sindaci ad adottare il principio di precauzione come ha fatto il sindaco di... Lei ci ha detto che avrebbe fatto questa cosa, che avrebbe fatto questa riunione, che avrebbe suggerito a tutti i sindaci di farlo. Ci siamo tenuti in contatto fino alla fiera del Levante e adesso onestamente sono una ventina di giorni che tutto abbiamo fatto un po' i contatti, quindi era particolarmente impegnata. Comunque per il discorso si sarà inabissata con le navi dei veleni pure lei, evidentemente. Guardate, vabbè, giusto per fare la battuta, qua facciamo delle cose tutti in modo collettivo, Italo. Ti passo Peppino D'Elia, che è un altro nostro, fa parte del nostro gruppo. Ed sì, grazie. Il delegato calabrese che ti dicevo ha partecipato alla Fiera del Levante, all'incontro dei vari governatori, ed è stato l'unico a partecipare alla costituzione di sto benedetto comitato referendario Notrib nazionale, perché purtroppo anche a Roma l'unica realtà associativa, l'unica purtroppo gruppo di lotta a questa cosa eravamo noi, per cui lui era materialmente presente, e ti faccio parlare anche con lui perché è giusto che te ne parli lui. Perfetto, sì. Perfetto, grazie. Ciao, sono Peppino. Ciao, buonasera Peppino, grazie di essere con noi. Sì, allora volevo dire che sono un delegato per urgenza, non per... Sì, sì, meglio specificare. Purtroppo ci siamo ritrovati da soli, allora alla fine, ok, entra tu e sono entrato io. A Roma invece ci sono andato e purtroppo mi sono ritrovato anche lì da solo. Anche se abbiamo contatti con altre persone che si muovono in Calabria per la questione Notrib, come Rosella Terra di Crotone, però in sostanza, ecco, anche prendersi alcune responsabilità sarebbe meglio condividerla il più possibile, questa responsabilità. E in effetti per la questione referendaria il fatto che bisognerà fare d'ora in avanti e creare, al di là di quello nazionale, una sorta di coordinamento regionale che comunichi l'idea era quella che era nata a Roma, che i vari delegati regionali notrisi che comunicassero con i vari delegati regionali delle istituzioni che comunque formano per forza il comitato referendario istituzionale, perché sono le regioni che hanno presentato i quesiti, anche se sono stati offerti gentilmente dal lavoro del coordinamento nazionale Notrisi. Ci sono delle scadenze importanti, e sono delle scadenze che in qualche modo sottolineano anche un po' il clima di incoerenza e di politica che respiriamo a livello istituzionale in questo momento in Italia, perché entro il 13 dicembre, per quanto riguarda le due istanze di cui parlava Giulio prima, che riguardano appunto precisamente il Marionio fra Policoro e Sortano, le scadenze per presentare i ricorsi sono il 13 dicembre. Quindi proprio a stretto giro. Cosa? Quindi proprio a stretto giro. A strettissimo giro, al di là di alcune dichiarazioni di intenti, però non sappiamo a che punto sono. Sì, quindi... già stata concessa la via, quindi la valutazione di impatto ambientale ha avuto esito positivo per il Ministero dell'Ambiente da il 13 ottobre. In 70 giorni si può fare ricorso, per cui al TAR del Lazio, per cui si arriva al 16 dicembre. Noi sapevamo che alcuni amministratori locali si stavano muovendo, ma non abbiamo notizie certe sullo stato, insomma, delle cose attuali. Della regione assolutamente niente, anche perché appunto la latitanza di cui parlava Tullio prima dell'assessore regionale si riferiva proprio a questo. Nel momento in cui il 30 settembre 10 regioni, tra cui la Calabria, presentano 3 quesiti referendari che riguardano le no alle trivellazioni, il 13 ottobre il governo dà un via libera su due istanze, si crea certamente un clima di incoerenza, perché comunque il governo centrale sappiamo a che titolo è diretto, da quale partito, e sappiamo pure i vari governi regionali, in particolare quello calabrese, per cui non vorremmo che fosse stata soltanto una sorta di, no, la butto così, di pantomima quella del 30 settembre. Anche perché in Garbuglia non vuole vicende, ma alla Fiera del Levante Emiliano, nell'annunciare appunto la presentazione dei quesiti referendari, ha esplicitato più e più volte, Emiliano il presidente della regione Puglia, sì, sì. volte che questo atto non era da intendersi come atto politico contro il governo. A questo punto, il 13 ottobre, il governo ha fatto la sua mossa e in effetti di politico non si è mossa niente, quando invece ce ne sarebbe molto bisogno. Ce ne sarebbe stato bisogno, sì, ma infatti lo dicevamo pure prima a proposito dei rifiuti, insomma, diciamo che si vive una sorta di schizofrenia istituzionale e politica, no? Da parte comunque delle varie amministrazioni regionali, dei vari livelli, insomma, di governance, si vive una schizofrenia completa, no? Perché si predica in un modo, poi in realtà gli atti vanno in tutt'altra direzione, perché insomma la volontà politica dello Sblocca Italia è chiara, è chiarissima. Appunto, no, la problematica è che le istituzioni producono atti e molte volte rimangono atti formali vuoti. Questo voto poi la colma la decisione apparisse. Esatto. Comunque sì. Volevo ricordare un'altra cosa. Sì, vai. Direttamente collegate alle trivellazioni ci sono problematiche relative ai rifiuti provenienti dalle trivellazioni. Tant'è vero che in Basilicata cominciamo a voler utilizzare i posti già fatti, già sfruttati per depositare i rifiuti e reinventarli nella terra, insomma, è un bel giro in sintesi. Ecco un altro appuntamento che volevamo giusto per chiudere, perché il tempo è finito, se ci regolate un po' di appuntamenti. Pronto? Ho detto, visto che il tempo sta per finire, se ci ricordate qualche appuntamento che avete nei prossimi giorni. Lo stavo facendo. Esatto. Allora, questo perfetto, sempre per le istituzioni. Ok, chiunque in Calabria può spingere tra Rossano e Policoro i propri rappresentanti a presentare questi ricorsi. E poi un'altra cosa, il 28 a Policoro, il giorno prima della marcia globale per il clima, il comitato studentesco Metapontino ha organizzato una marcia globale pure lì a Policoro. E noi parteciperemo sicuramente, per cui gli altri calabresi che vogliono raggiungerci ci siamo e possono unirsi tranquillamente a noi. Ecco, questo è importante perché sembra, almeno per il momento non abbiamo notizie contrarie, sia una manifestazione nata dagli studenti scevra di appartenenze politiche, diciamo così, quindi molto, molto importante. Va bene Peppino, grazie, ti ringraziamo, ringraziamo pure Tullio, a tutti voi del RASPA, ci sarà sicuramente modo in altre puntate di ritornare sull'argomento, anche perché insomma la questione delle trivelle, la questione della tutela ambientale, delle lotte territoriali che, come le vostre, vanno sicuramente, gli va dato spazio ed ampia risonanza. Quindi grazie per essere stati con noi, ci sentiamo presto. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. E quindi abbiamo sforato alla grande, quindi andiamo con un pezzo musicale e poi andiamo in conclusione. E poi andiamo con le conclusioni veloci, vediamo se riusciamo a contattare il sindaco, giusto per salutarlo. Vogliamo sentire questa voce. Ci vogliamo bene, dai, al sindaco. Vogliamo sentire questa voce, insomma. Certe volte su scorda. No, su scorda, Antonio su scorda davvero, che la vogliamo bene. Va bene, comunque, dai, ci sentiamo tra poco. green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Sulle note dei Rolling Stones ritorniamo in studio 105.7 ciroma.org per lo streaming. Siamo in chiusura, Italo. Insomma, abbiamo ascoltato la viva voce, insomma, dell'associazionismo ambientalista che si occupa, insomma, di tante cose, perché come abbiamo sentito la RASP si occupa non solo di trivelle, ma si occupa di viabilità, di comunicazioni, di tutta la comunque del territorio in generale. Poi insomma ci sarebbero tante considerazioni da fare. Adesso ho sollevato un bel problema sul fatto dei rifiuti derivanti dalle estrazioni delle trivelle. È un problema di cui si parla poco ed è un problema di cui si conosce poco ed non è da sottovalutare, soprattutto in una regione come la nostra dove non sappiamo dove mettere i nostri rifiuti solidi urbani, figuriamoci i rifiuti che leviamo via da sottoterra e dai fondali marini. Insomma, che poi diciamo che le sostanze che vengono fuori, insomma, da questo tipo di attività non sono delle più salubri, quindi i problemi Arpacal permettendo, perché il piombo non inquina, ricordiamolo sempre, grazie all'Arpacal. Quindi abbiamo tanti dubbi, insomma, che possiamo sollevare. Io ho scritto all'UNESCO di proclamare l'Arpacal al patrimonio per l'UNESCO. In effetti, più che patrimonio per l'UNESCO, insomma, io la chiuderei proprio. Io direi di scaricare per la Calabria. Vabbè, comunque si sono dimessi, però dicevamo. Vabbè, dai. Ce ne saranno altri, figure. Quindi va bene, siamo arrivati in conclusione. Vediamo se riusciamo a fare un altro po' di opera di stalkeraggio istituzionale, chiamando di nuovo il sindaco per sentire, insomma, sta voce. Vediamo se risponde. Così parliamo direttamente con lui, insomma, di questa benedetta discarica. Pronto, sindaco, buonasera. Buonasera. Salve, sei in diretta su Radio Ciroma, ciao. Io sono alla comunità montana, dimmi tutto. No, niente, ti volevamo sentire così, insomma, per avere qualche novità, insomma, qualche informazione dalla voce diretta, insomma, del sindaco interessato, insomma, della questione di scarica di Celico. Abbiamo parlato, insomma, dell'incontro che abbiamo fatto a Spezzano, ne faremo uno anche a Celico nelle prossime settimane, quindi con te ovviamente che sarai, diciamo, ma io come al solito non mi sono mai tirato indietro, sono sempre stato presente, sono venuto pure a Rovito 2 settimane fa, quindi voglio dire, anzi è bene farli gli incontri per informare la gente. Ditemi tutto. Dico, essendo tu uno tra i più informato e più esperto della situazione, in quanto come noi sei in prima fila da oltre 2 anni in merito a questa questione, prima come, correggimi se sbaglio, assessore eri prima, sì, questo come sindaco, volevamo sapere che novità c'erano in merito all'evoluzione sia delle carte, sia delle comunicazioni con la regione e sia della situazione fattiva di quello che sta succedendo. Allora, se facciamo un po' il punto della situazione, così diciamo entriamo più nel dettaglio. Per carte che cosa intendete? Rispetto ai lavori che stanno eseguendo lì in discarica per quanto riguarda il Capannone, o rispetto alla richiesta che noi abbiamo portato in regione dell'autorizzazione integrata ambientale in autotutela? Tutte e due, sia l'uno che l'altro. Ecco, vedi, io mi alzo le palle, così mi fate parlare, io c'ho una riunione di no là. Vabbè, dai, 5 minuti, fai. No, al di là, per quanto riguarda diciamo la documentazione che è in possesso al comune, pare del tutto evidente che diciamo i sopralluoghi effettuati e dalla documentazione che loro hanno fornito pare che sia tutto in regola, perché è chiaro che adesso l'unico passaggio che manca è quella delle misure da parte dell'ufficio tecnico per verificare se effettivamente quello che è stato autorizzato poi è stato diciamo realizzato in termini di rispetto della progettazione. Perché poi noi avevamo chiesto l'integrazione anche della documentazione, perché come ben sapete il tutto è stato autorizzato nella autorizzazione integrata ambientale, quindi in quella sede nel rinnovo loro riproposero di nuovo diciamo la copertura dei capannoni, quindi la lavorazione eccetera eccetera. Quindi mi sento di dire, per come ho avuto diciamo prontezza nel guardare le carte, che forse diciamo sono a posto, però è chiaro, no, manca un sopralluogo, ma mi pare che pure il comitato ha visionato già parte della documentazione in possesso al comune, si è fatto pure delle fotocopie, c'è stato l'accesso agli atti, e quindi su questo diciamo anche il comitato stesso può dire la sua. Per quanto riguarda invece l'autorizzazione integrata ambientale, io giovedì scorso sono stato in regione per la questione diciamo anche delle royalty, così come ho detto in assemblea a Rovito, perché è chiaro che a me tutto quello che è accaduto fino ad oggi come impatto ambientale me lo devono pagare, perché è chiaro, oltre al danno pure la beffa, io non ci sto a queste condizioni, anzi in assemblea invitavo anche il comune di Rovito, e lo voglio dire pubblicamente in un'intervista, che secondo me è il caso che possono richiedere delle risorse che poi possono essere messe a disposizione della comunità oppure dell'ente stesso, ma l'importante è che queste risorse in un modo o nell'altro vengono recuperate. Questo è il punto primo discorso. Secondo discorso più importante, siccome il responsabile del procedimento era l'Ariello, sono andato dall'Ariello, il dirigente, a chiedere spiegazioni in merito alla documentazione, a quello che erano le risposte che ci dovevano dare. Al momento ancora la situazione non è stata attenzionata, nel senso che non sono andati fino in fondo a valutare le nostre richieste, e quindi io gli ho detto che era il caso, gli ho dato una settimana, 10 giorni di tempo, di convocare tutti coloro che eravamo lì presenti in quella sede quando portammo la petizione, quando portammo il documento a firma dei sindaci, di invitare tutte quelle persone e dirci come stanno le cose, perché noi abbiamo bisogno di capire come stanno le cose. È chiaro che io non mi posso sbilanciare rispetto ad un'esperienza che posso avere io personalmente come sindaco di un ente, ma è chiaro che comunque loro o in un modo o in un altro ci devono dare delle risposte. Mo mi pare che siano al lavoro, c'è un gruppo che sta lavorando, ed è chiaro che loro ci devono dare delle risposte dettagliate, il perché sì o il perché no, è chiaro questo. Dopo il perché sì e il perché no, dopo il perché sì e il perché no, dobbiamo valutare poi le azioni future. È chiaro che si tratta anche poi di valutare eventuali proposte e trovarci poi nelle condizioni, sempre in quei tavoli, di dare appunto delle risposte, perché possiamo trovare secondo me la quadratura del cerchio rispetto anche alle ultime uscite del presidente. È chiaro che, voglio dire, non avendo l'esperienza, cioè quando ha parlato dell'impianto di essiccazione, è chiaro che ci siamo un po' messi tutti a ridere, no? In effetti, che sembrava che... più una battuta che non altro. Però magari ci sono state anche delle situazioni in cui il presidente ha preso degli impegni che, su cui noi dobbiamo fare punto di forza e punto di leva nella peggiore delle ipotesi, perché quando ha detto non tal quale, vabbè, tal quale per legge, lo sappiamo tutti, inutile che anche i telespettatori sanno che il tal quale in discarica oramai per la normativa europea non può più essere conferito in discarica. Ma per quanto riguarda il discorso dell'indifferenziato, beh, è chiaro che io lo leggo a un discorso di raccolta di indifferenziato, e quindi come indifferenziato vado a pensare che lì non ci andranno più rifiuti indifferenziati. Quindi è su questo che io voglio, diciamo, lavorare, no? E quindi fare in modo che su questa situazione ci possa essere l'attenzione particolare, in modo da cogliere almeno qualcosa di positivo. Poi è chiaro, ho fatto delle proposte in quel tavolo, no? La bonifica della vecchia discarica, ancora devono pagarmi la messa in sicurezza, pagare non a me ma a chi ha vinto la gara, e quindi è chiaro che è un discorso su cui sono pure preoccupato, perché se dovesse farmi un decreto ingiuntivo, io devo fare poi di conseguenza un decreto ingiuntivo alla regione, ma è chiaro che in questa partita noi ci dobbiamo giocare anche la questione della bonifica della discarica, perché comunque questo territorio in termini di impatto ambientale ha dato, e quindi un'attenzione particolare, perché se è pur vero che mi riconoscono le royalty, non è giusto e mi sembra poco, diciamo, aiutatemi, corretto appunto, utilizzare le risorse per monitoraggi e quant'altro, perché me li devono pagare loro. Io queste risorse le dovrei utilizzare per avvantaggiare i miei cittadini, perché certo, come per migliorare i servizi, risorse escono tutto dalla porta, resto, escono dalla finestra, cioè, non so se è chiaro il ragionamento, cioè, voglio dire. Ma al di là della questione dell'aspetto economico, che purtroppo noi sindaci con le situazioni di bilancio in cui ci troviamo negli ultimi due anni col patto di stabilità dobbiamo stare attenti, ma io mi giocherei la partita della bonifica, no? Almeno di essere inserito nel piano delle discariche che devono essere bonificate, perché con i POR, voglio dire, ci sono le risorse. Sì, sì, oggi i fondi ci sarebbero pure. Quindi si tratta di lavorare su queste soluzioni. È chiaro che una soluzione deve essere trovata in maniera definitiva per tutti, perché non è che possiamo fare questo gioco delle tre carte e ritrovarci periodicamente sempre punte a capo, a fare delle lotte che funzionano a nessuno. Ormai siamo adulti. Cioè, è chiaro che io la politica la voglio mettere da parte in questo momento, e spero che il tutto non si faccia per un discorso politico, ma che ci sia un discorso per la tutela del nostro territorio, indipendentemente dal colore politico. Questo deve essere chiaro, perché se dovessi accorgermi che c'è dietro questo aspetto, è chiaro che io vado avanti per la mia strada, come ho sempre fatto, ci ho messo la faccia in tutte le cose e penso che... Ma ti riferisci al comitato? Mi riferisco a un discorso in generale, cioè subire a volte poi delle critiche rispetto a delle azioni che secondo me bisogna cogliere anche gli aspetti positivi delle azioni. È chiaro che la lotta deve essere per la tutela del territorio. Vabbè, questo è chiaro. Ci poteva essere Scopellino, ci poteva essere Oliverio, ci poteva essere Beppe Grillo, a me non me ne frega niente. Il discorso è chiaro, sì, lo dico proprio in dialetto così. Ma ci mancherebbe, il discorso è questo, insomma, voglio dire, la strumentalizzazione politica sta sempre dietro l'angolo ovunque, quindi lo sappiamo. Però insomma, da parte nostra come comitato siamo come abbiamo ricordato più volte, il comitato nasce da un'esperienza collettiva, no, che coinvolge anche i giovani democratici, appunto, ci sono apolitici, la connotazione politica del comitato se voi vi ricordate bene, io dissi in quella sede: no, ma senza nulla togliere a Casa Pound, cioè, no, adesso non mi voglio mettere contro Casa Pound, ma se dovesse venire Casa Pound qui domani mattina a lottare a tutela del nostro territorio, che ben venga, proprio per far capire il senso che, essendo io un uomo di sinistra, non la sto portando avanti come una battaglia politica, ma come una battaglia. Ma per carità, speriamo comunque che insomma i problemi ci risolviamo da soli, senza aspettare Casa Pound. Lo posso dire tranquillamente che l'impegno della regione è quello di convocare adesso questo tavolo e darci delle risposte. Poi, sulla base delle risposte, è ovvio che andremmo poi ad attenzionare le risposte che ci verranno date, in maniera positiva spero, in maniera negativa, e verificheremo poi gli atti. Dopodiché, verificati gli atti e si è accertato sia in maniera positiva che in maniera negativa ci sono le condizioni, dobbiamo trovare delle soluzioni e fare delle proposte. Chiaro. Esatto, questo poi una fase successiva, saranno insomma le determinazioni collettive, insomma, che porteranno a questo. Antonio, siamo purtroppo in chiusura. Io me ne devo scappare che sto facendo una figuraccia. Perfetto, Antonio, ti ringraziamo tanto per essere stati con noi. Ciao, ci vediamo presto. Buona serata, grazie. Salve, ciao Antonio. E quindi abbiamo ascoltato. Quindi, mi sembra che il punto più focus è sopprimere la lotta, in quanto non si può lottare per sempre, dicono, dalla regione. Ricordiamo che grazie a questa lotta nella discarica di Cerico non sono stati sversati tonnellate e tonnellate e metri cubi di tal quale. Mentre le ordinanze regionali prevedevano appunto quello. Quindi la lotta paga, evidentemente paga l'informazione. Evidentemente qualcuno se ne accorge, altri un po' meno, altri ne fanno una strumentalizzazione politica, chi più chi meno, un po' tutti. Ovviamente usano tutte le armi possibili per dare contro questa lotta, perché comunque dà fastidio, e ovviamente cercano di farla pesare sui sindaci, in questo caso sul sindaco di Cerico. Comunque, al di là di tutto, anche perché le pressioni che riceve sono tante, da più versanti, lo sappiamo benissimo, quindi capiamo benissimo la sua psicologia e anche atteggiamento politico, se vogliamo, quindi ci sta. Anche se, voglio ripetere, e poi andiamo davvero in chiusura perché abbiamo sforato davvero tantissimo, lo voglio ripetere: da parte del comitato nessuna strumentalizzazione politica, nessuna velleità politica e nessun secondo fine. L'unico fine che si è presupposto e porta avanti il comitato e cerca di raggiungere, appunto, quella di tutelare un territorio che è stato massacrato per anni, e questo è quanto. Quindi per il resto stiamo distruggendo lo studio, per il resto andiamo avanti con le nostre battaglie e le nostre posizioni. Siamo arrivati davvero in chiusura. Appuntamento al prossimo lunedì, di nuovo dalle 18, dalle frequenze di Radio Ciroma 105.7 ciroma.org. Noi siamo gli Scarafaggi, a lunedì prossimo.